La di da di we like to party. Sono troppo curioso, si come ti chiami. Se non me lo vuoi dire, vabbè, neanche mami. Il mio non me lo sai, ma vabbè, neanche papi. Che bomba il tuo vestito deve essere un marmi. Che stile lo stiletto che calpe, stai marmi. Detesto quel botto, io non porto armi. Tutte queste panni ballano per i money. Shot dopo shot dopo shot come un killer. Avevo già un loft delle crib, ma una villa. Ora sono al top, vengo dalla via. Ma quando ti guardo dico, mamma mia. Ti può fare un attimo, sei una star. Invece sono un angelo, andiamo via da qua. Ti facevo più romantico, ma quando tu davanti mi restano due parole. La di Dari, we like to party. Ha preso fuoco il capotto di Marni. Tini mini money mo, scelgo la mia hope. Ma compagni dentro il bagno del one hope. La braccio faccio si sanno, ti confermo. Pussy capo tu mondi, you bet, ti confermo. Disco pompi, due anni che all'una. Stato dai capelli, blu una cake, ma che dice vai. Shot dopo shot, dopo shot con un killa. Muovilo così finché fa una scintilla. Tu sei Rose, devi metterti in fila. Vuoi la tila, ula, e ma sono io la sua pupilla. Come fa? Ora ti puoi fare un attimo, sento la star. Invece sono un angelo, andiamo via da qua. Ti faccio più romantico, ma quando tu davanti mi restano due parole. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. Come on, mamma, si quando mi guardi. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. Come on, mamma, si quando mi guardi. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. La di daddy, we like to party. Come on, mamma, si quando mi guardi. Gentlemen.